questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Un saluto da Marta Cagnola, ci troviamo insieme per questo mese d'agosto, ogni sabato per riascoltare alcuni dei momenti migliori degli incontri che abbiamo amato di più in questa stagione di RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Cominciamo con questo sabato e con alcuni ospiti davvero, davvero interessanti. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo entusiasmante video della premiata ditta 55 Winston 55, yeah! Baci, abbracci. Video ad alto contenuto di taglie, ecco. In che senso, Antonio? Spiegalo tu. Nel senso che questo è un video haul, perché abbiamo comprato un sacco di teglie. Quindi, se le teglie vi fanno impressione, esatto. Se ci sono, non lo so, dei malati di cuore a cui la visione di una teglia può fare impressione, non guardate questo video. Allora, io ho detto Daniele, voglio parlare di rete, YouTube e cucina. Noi sì, che parliamo di tutto, questi sono bravissimi, io sono pazza di loro. Il nome del canale è complicato ma divertente, 55 Winston 55. Loro fanno cucina e anche una versione 2016 dell'economia domestica. Io ne mostrerei qualche brevissimo estratto alla radio. Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova video ricetta. Sono Mauro di 55 Winston 55. Tempo di zucca, prepariamo un classico della cucina italiana, ovvero il risotto alla zucca. Andiamo subito a cucinare. Yeah. Evviva, baci, abbracci e fiori che ci schiaffeggiano la faccia. Allora, Antonio, questo è il video con il più alto tasso di disperazione casalinga che abbiamo mai registrato nella nostra gioiosa, gloriosa e pluripremiata carriera. Perché che video è oggi? Oggi, ragazzi, la disperazione del bucato a mano e il lavatrice, ma soprattutto il lavatrice. Buongiorno, benvenuti ad un nuovo appuntamento dei preferiti del mese. Viva! Questa rubrica sta superando i confini dell'Italia, del mondo. È andato su Marte. Ho visto i marziani che erano messi là. Come si fa a non fare i preferiti del mese Food Edition? Esatto. Copiata, ho visto i marziani che la copiavano, è bellissima. Allora, loro sono due youtuber bravissimi, sono siciliani, si chiamano Mauro e Antonio, 55, Winston 55, secondo me sono i casalinghi del 2016, sono il vero casalingo così come deve essere. Meno male che ci danno tutte le dritte per diventarlo anche noi. Li saluto una alla volta, ciao Mauro. Ehi, ciao a tutti, buonasera. E ciao anche Antonio. Ciao Marta e ciao a tutti voi. Che meraviglia, ciao. Allora i loro video, adesso ne twitto qualcuno, mi fanno impazzire perché... Guarda che l'economia domestica tra l'altro è un tema che spacca. Ma serissimo. Allora, cucina New York Times ci con, tra l'altro, cucina con cucina tradizionale, sì. Cucina esotica, cucina vegana, cucina per intolleranti, celiaci. Molto, molto seria. Poi, l'economia domestica, appunto, come si lava, come si stira, i preferiti del mese, cioè i cibi assurdi, le ricette, e poi provano i prodotti. Quando nasce un prodotto nuovo, loro lo assaggiano e dicono è buono o cattivo. Com'è nato 55 Winston 55? Allora, ovviamente è nato tanti anni fa, oramai 5 anni fa, nulla. Ero un fan e sono tuttora un fan scatenato di Benedetta Parodi, seguivo su una sua vecchia trasmissione che si chiamava Cotto e Mangiato, non so se la fanno più, e la volevo riproporre online su YouTube, un po' su ricette facili, veloci, appunto da fare sul tubo, ecco, tutto qua, è nato così per gioco e poi insomma alla fine continua ad essere un gioco, ma cerchiamo di farlo sempre, diciamo, con passione, ma magari mettendo delle idee un po' più nuove, tutto qua. Ma anche perché tecnicamente sono fatti benissimo, sì, Daniele. Sì, per esempio c'è un video sulle 50 cose che ci sono nella nostra cucina, che peraltro si chiude con i libri di Benedetta Parodi, che è veramente perfetto, tra l'altro con un'idea originale, la musica, quindi... proprio belli da per vedere. Halloween hanno fatto anche un piccolo corto horror con la ricetta. Beh, sono veramente con bravi con la zucca, immagino. Se, ma perché le... 55? Antonio, perché 55 Winston 55? Ma guarda Marta, non c'è una, insomma, un motivo particolare, è stato semplicemente un nome che è venuto così in mente. Poi ci abbiamo messo delle cifre, perché sai, spesso non ti accettano dei nomi, eccetera. Grazie. Sarebbe stato più semplice avere un nome, ecco, più, insomma, appunto più semplice, ma poi insomma ci siamo affezionati e ce lo teniamo caro. Ma infatti è molto carino. Mauro, quest'estate ristrutturazione della casa e creazione di un vero e proprio studio. Ogni angolo della casa diventa un angolo che può servire da set di ripresa. Mauro, è una cosa impegnativa, perché per voi è un hobby, non è la vostra per professione. Ora, per ora, cioè, per ora fanno la altre professioni, ecco, tradizione principale, professione principale, però è un bell'impegno. Quanto tempo dedicate al canale, Mauro? Allora, tanto, perché non è solo, diciamo, girare il vero e proprio video, ma poi c'è tutto un lavoro di post-produzione, quindi montaggio, scegliere le musiche, comunque, insomma, sì, almeno 2 giorni pieni a settimana, soprattutto noi il fine settimana registriamo, sì, proprio lo dedichiamo esclusivamente ai video, almeno a settimana ne giriamo circa 4 e quindi... Ecco, è un po' impegnativo. La mattina registriamo, la notte montiamo. Questo è più o meno il nostro... Perché il pomeriggio ritmo. Lavora, avete il vostro lavoro normale quotidiano? Certo, perché noi abbiamo il nostro lavoro normale e in più appunto questo hobby di YouTube. Ma sbaglio o c'è una leggera differenza di tono tra i video più sulla cucina? Sono un po' più professionali, cioè, seriosi, come... Esatto, seriosi. Quelli sull'economia domestica c'è molta più ironia, cioè c'è molto... quasi in corso per sopravvivenza. Ma è proprio, è stato fatto un pochino apposta, insomma, chi cerca le ricette su YouTube ha sicuramente meno tempo da perdere, diciamo, su internet, e quindi vuole andare subito al sodo e quindi vuole vedere la ricetta, punto e basta. Gli altri, diciamo, li vediamo più come video di intrattenimento, anche dove si può scherzare e ridere. Pensate possa diventare il vostro lavoro? Una bella domanda. Guarda, per adesso è un piacevole, impegnativo gioco. Più passa il tempo, chiaramente, insomma, più... guarda, sincerità, perché no? Non sarebbe male. Assolutamente legittimo, anche visto l'audience di alcuni video. No, ma infatti poi, secondo me, anzi, dovrebbero avere molte più visualizzazioni. Vi invito a iscrivervi a questo canale, perché a me è piaciuto veramente tanto. Cioè, secondo me, dovrebbe essere uno di questi canali da centinaia di migliaia. Sì, di anche perché poi, insomma, la trasformazione delle proprie passioni in un'ipotesi di professione è una delle cose che la rete rende alla portata. Ragazzi, vi faccio la domanda scottante. Sì. Allora, in rete spesso, ma magari per la cucina meno, ma insomma dipende, ci sono le cosiddette collaborazioni, che sono dei video di con delle pubblicità, potremmo dire, più o meno occulte, cioè le aziende che inviano i prodotti e che, insomma, poi dicono: noi non influenziamo gli youtuber, però di fatto uno youtuber si trova i prodotti gratis, magari li recensisce con un occhio di favore. Voi scherzate molto su... Gli influencer influenzabili. Esatto. Voi scherzate molto su questa cosa, Mauro, ogni tanto dite: ah, se qualche azienda ci vuole mandare 80 scatoloni di questa cosa, a noi fa piacere, però voi andate proprio a fare la spesa, mostrate lo scontrino e mostrate, cioè fate le prove vere. Sì, ovviamente tutto quello che mostriamo nel video è tutto, ecco, frutto della nostra spesa, dei nostri soldi, ma va bene così, riusciamo ad essere un canale libero al 100%. Come sta andando l'interazione con il pubblico? Immagino che hanno fatto anche delle prove di diretta. No, appunto, dico, immagino che vi scriveranno, vi chiederanno. Qual è l'aspetto che vi incuriosisce di più dell'interazione con il pubblico? La cosa che, insomma, ci piace poi nel tempo è proprio questo fatto che abbiamo instaurato un rapporto molto sereno e soprattutto di fiducia. Per noi è molto importante che le persone, insomma, che ci guardano, che ci conoscono oramai da tempo, si fidino di noi. Insomma, se ti devo dare la ricetta, se ti devo dire una cosa, a noi, insomma, fa piacere che questo scambio sia quanto più trasparente possibile. Quindi il rapporto e l'interazione, devo dire, abbiamo, tra virgolette, si chiamano così, degli utenti, davvero delle persone, ma non è tanto per dirlo, delle belle persone, cioè ci troviamo bene, abbiamo un pubblico molto eterogeneo e ci piace. Ma fino ad oggi pomeriggio, ti faccio un esempio, mi hanno scritto, volevano sapere se potevano usare la farina integrale piuttosto che una strafarina. Ecco, è un po' come quello, lo scambio che c'è col vicino, e questo è una comunità, è molto bello, bello. Date dei consigli a Marta Cagnola, sì, perché io, ripeto, io, secondo me in cucina io copio tutto, copio tutto da 55 Winston 55 video ogni domenica alle 9, mercoledì e venerdì alle 17.30, anticipazione dei prossimi video. Dai, dateci un Mauro, che cosa ci sarà di nuovo? Allora, intanto domenica faremo un bel Promossi e Bocciati, proprio stavamo parlando di prodotti, ecco, recensiamo un bel po' di prodotti tutti in un unico video e diamo il nostro punto di vista. Poi c'è la rubrica sulla pasta mercoledì, insomma, tanti video. Allora, domattina l'appuntamento con Mauro e Antonio di 55, Winston 55 su YouTube. Domani ci sono i prodotti Promossi e Bocciati, quindi io domattina sono già lì che lo aspetto. Ciao! Grazie Mauro, grazie Antonio, ciao, a grazie presto! Grazie a voi ragazzi, grazie, ciao! Ciao, ciao, ciao, ciao, un saluto a tutti, ciao! Che meraviglia, iscrivetevi perché sono bravissimi. Secondo me adesso abbiamo le informazioni per Benigni. Traffico tra poco. Radio Tube. Sto per raccontarti la storia della mia vita e in particolare dei motivi per cui è finita. Se solo qualcosa fosse andato diversamente, niente di tutto questo sarebbe successo. La gente cominciava a parlare. Dovevo fare qualcosa. Qualsiasi cosa Anna pensi di aver visto, ha mentito. E finalmente, caro Daniele, parliamo di questa serie televisiva qui a Radio Tube. Perché... di cui ogni tanto abbiamo dato cenni. Esatto, esatto. Ogni tanto abbiamo così lasciato cadere il nome di 13, sì. il nome italiano, 13 Reasons Why, il nome inglese, cioè 13 motivi per cui è successa una certa cosa. Una serie che ha fatto moltissimo parlare di sé, che sì, continua a fare moltissimo parlare di sé. Perché intreccia tante tematiche molto attuali. Allora, cerchiamo di spiegare velocissimamente la trama per chi non l'avesse mai vista. Non spoileriamo nulla, no, non roviniamo nessuna sorpresa. È la storia di una ragazzina del liceo che si suicida. Noi già sappiamo nella prima puntata che lei si è tolta la vita e che ha lasciato non dei bigliettini, ma delle cassette registrate, come si faceva un tempo, indirizzate a compagni di classe ma anche ad adulti, e a ognuno racconta la ragione per cui lui è stato determinante nella decisione della ragazza di togliersi la vita. Ogni persona è un pezzettino della scelta drammatica e della depressione e della solitudine della ragazza che decide di compiere questo gesto. Io ho trovato un punto di vista molto molto molto interessante in rete. È stata intervistata da Vita, un periodico molto importante. Lei è Daniela Cardini, docente di format e serie TV alla IUM di Milano, ed è qui con noi a Radio Tube. Buonasera. Buongiorno. Daniela, buongiorno a tutti, grazie per avermi voluta con voi a quest'ora. Buongiorno, buonasera, sì, si mischiano, sì, perché poi soprattutto a primavera, tardo pomeriggio. Allora, io l'ho presentata formalmente, ma siccome siamo anche amiche le do del tu, Daniela. Allora mi unisco, faccio così, sì, mi unisco. Ma allora così, senza pudore. Daniela, tu hai detto in questa intervista che raramente una serie ti ha coinvolto così tanto, e detto da te che insomma di serie TV hai fatto anche materia di studio universitario, non è poco. Perché? Me lo sono chiesta anch'io, effettivamente non me lo aspettavo quando ho iniziato a vederla. Devo dire che l'ho definita vischiosa, vischiosa perché entri anche un po' faticosamente, devo dire, però non riesci a uscirne, non riesci a uscirne, e devi finire, devi vedere cosa sì, succede. È veramente tipico, insomma, della modalità di binge watching che Netflix ha in qualche modo istituzionalizzato, no? E questo, devo dire, è uno degli aspetti più interessanti. Devi continuare a vederlo, non tanto per sapere come va a finire, perché lo sai dall'inizio come va a finire, ma quello che ti colpisce tantissimo è cercare di capire perché. Quindi ti sollecita molto e ti disturba piaceva molto. In 13 quello che mi ha colpita moltissimo e che mi ha tenuta lì è proprio che l'aspirazionalità non c'è, c'è la normalità ed è incredibile, c'è una normalità che è agghiacciante per certi aspetti. Questi ragazzi non sono bellissimi, non sono perfetti, non sono modelli estetici, sono ragazzi normali, sono quelli che potrebbero essere presenti nelle scuole del nostro paese, insomma, che le vediamo in giro tutti i giorni. Quindi questo è un elemento secondo me molto forte che ti tiene lì, perché non c'è nulla che non sia credibile. Dopo il primo momento in cui ti sembra che l'ipotesi narrativa iniziale, cioè il suicidio raccontato a ritroso, sia romanzata, ecco, questo momento di astrazione dal reale finisce e tu sei dentro e sei con loro e vedi quello che normalmente vedi o a casa se hai dei ragazzini di quell'età in giro o a scuola o per strada. Sono Anna Baker. Sto per raccontarti la storia della mia vita, anzi più esattamente il motivo per cui è finita. E se tu hai queste cassette è perché sei uno dei motivi. Ci siamo baciati. Tutto ok? Perché? Tu sapevi qualcos'altro? Non c'entra assolutamente con questo. Alex ha fatto tutto da solo. Tanto era solo un gioco. Vero, Alex? Ti ho scritto una lettera dicendoti cose che non avevo mai avuto il coraggio di ammettere con nessuno. Quanto era difficile vivere. Quanto mi sentivo sola. Speravo che leggendo la lettera avresti capito. Ma a quanto pare non me lo meritavo. Dopo aver finalmente capito come tutto era successo, ho deciso che nessuno mi avrebbe più fatto del male. So che qualcuno di voi penserà che avrei potuto fare di più. O che avrei dovuto. Ma avevo perso il controllo. Faccio una domanda un po' moralista. È una serie pericolosa, nel senso che nella commistione dei generi, nel raccontare i personaggi, nella complessità del capire che molto spesso chi commette atti di bullismo non ha la consapevolezza di farlo, insomma, lasciando queste ambiguità etico-morali, insomma, ognuno le definisca come crede, è una serie un po' pericolosa, cioè rischia di non dare un messaggio, oppure è giusto che non lo dia? In Nuova Zelanda è stata censurata, appunto. È stata vietata ai minori? Sì, di 18 anni peraltro. Dunque, io ho una posizione piuttosto precisa in questo senso. Quando sento che qualche cosa che si vede in televisione è pericoloso, mi fa sempre abbastanza riflettere, perché secondo me non è il mezzo che è pericoloso. La televisione accende un riflettore, o insomma la serialità in questo caso accende un riflettore su un tema, è il tema che lo è. Ed è il modo in cui viene raccontato che per noi, ripeto, è urticante, non riesco a dirlo diversamente, cioè è sgradevole, sì. Perché lo racconta in maniera credibile. Quindi è più facile dire è pericoloso vedere questa serie piuttosto che dire bisogna che affrontiamo questo tema nella realtà, bisogna che ci facciamo i conti. Perché quello che mette veramente paura o che mette a disagio, mettiamola così, non è tanto quello che vedi agito, ma soprattutto la distanza abissale che c'è fra due generazioni, cioè quella degli adulti e quella degli adolescenti, dei preadolescenti in questo caso. E la cosa che non è originale, se ci pensiamo, perché quante volte abbiamo visto, no, raccontare, sì, questa storia, ma in questo caso quello che mi sembra molto interessante è che gli adulti sono presenti nella, sì, vita di questi ragazzi. Esatto. Non è che non ci sono. Sono fin troppo presenti. Sono anche spesso degli ottimi genitori. Esatto, spesso sono ottimi e genitori. La distanza è pure, c'è lo stesso. È proprio questa la cosa, secondo me, più innovativa, se vogliamo, sì, anche dal punto di vista narrativo, del modo in cui viene raccontata una generazione, anzi due in questo caso, perché non c'è nulla apparentemente e anche concretamente di sbagliato. Perché non partiamo da come ti senti in questo momento? Persa. E un po' svuotata. È come se non provassi niente. Tipo che non me ne importa più niente. Di niente. Della scuola, di me, dei miei compagni, dei miei. No, insomma, è chiaro che di loro sì, ma non... Io non sono come loro vorrebbero. Tesoro. Sono mortificata davvero. Perché pensavo che tu fossi più responsabile di così. Ti abbiamo dato fiducia. Non un problema. Senti, che mi dici dei tuoi amici? Amici? Quali amici? Jessica Davis. Alex Tendall. Non sono miei amici. E invece Clay Jensen? Io... Levi dalle palle, sì o no? Clay Jensen mi odia ormai. Ho bisogno di fermarmi. Vorrei che tutto quanto si fermasse. Posso dire che secondo me la ragione ultima perché è così urticante della definizione perfetta è perché sul grande tema del millennio, cioè la solitudine. È una serie TV sulla solitudine, che è la cosa che inquieta tutti ed è forse il male sociale più temuto in questa fase storica. Poi una solitudine che è molto rumorosa, mi diceva, nel senso che di fatto non è poi così vero che i social non siano presenti, perché poi la foto, il primo trigger, insomma la prima miccia, no, che parte su questo problema della protagonista è una foto che circola, presumiamo, su WhatsApp o su, comunque non tanto necessariamente su Facebook, ma su delle modalità di relazioni interne ad un gruppo, che però è un gruppo molto vasto ed è un gruppo che è fortemente identitario, quindi il problema è quello lì, cioè la solitudine all'interno di un gruppo vastissimo, no? È anche molto presente nella vita. Daniela, te l'hanno chiesto su Vita e te lo chiedo anch'io per concludere. Lo guardiamo 13? Lo facciamo guardare ai ragazzi, secondo te? Ma assolutamente, i ragazzi credo che lo guardino a prescindere dalla nostra volontà di farglielo vedere. Però sì, assolutamente, bisogna farlo vedere. Io non so nemmeno se sia poi necessario appunto vederlo, guardarlo assieme a, come si dice spesso, no? Adulti, ragazzi, eccetera. Sicuramente... Io credo che gli adulti lo debbano guardare, più ancora dei ragazzi, perché è un teen drama per adulti, mettiamola così. Mentre la generazione di mezzo, quella dei trentenni, insomma, è molto più fredda nei confronti di questo prodotto, e le ragioni sono quelle che credo, insomma, che abbiamo detto, perché comunque è troppo lontano dalla preadolescenza e non ha ancora, no, la percezione della relazione con un figlio o comunque con un giovane di quell'età diretta. Quindi è un programma, insomma, è un linguaggio questo che deve essere condiviso, secondo me, ma sicuramente, anche se non viene condiviso, deve essere affrontato senza paura, perché il problema è serio, è reale. Questa serie, sono molto tranquilla nel dire che lo affronta in maniera seria, se posso usare un gioco di parole, molto seria. Professoressa, grazie. Cardini, ti possiamo richiamare in qualche prossima puntata? Perché abbiamo anche di altre serie, vogliamo parlare. Grazie. Ma molto volentieri. Grazie molto a Daniela Cardini, docente di format e serie TV alla IUM di Milano, che è bravissima. Grazie, ciao. Daniela, grazie, presto. Grazie, ciao. Un abbraccio, grazie mille. Adesso mi scarico il sabato del villaggio, esatto, in podcast. E mentre c'è questa breve pausa, me lo mando veloce. No, perché tutto. È arrivato un ospite e la dobbiamo salutare insieme. Sono ciao. Tutta contenta. Tra a poco. Dopo. YouTube. Finalmente sono contenta di avere degli ospiti. Ma qua siamo nel capitolo come siamo super amici in questo momento io e Daniele. Traspare. Perché, allora, vabbè, grandi artisti, grandi dischi, però vabbè, facciamo subito coming out, grandi amici, grandi artisti. Se riesci a unire grande artista e grande amico, ho fatto cadere persino l'acqua dall'emozione. Bentornato a Radio Tube, Omar Pedrini. Grazie. Ciao Omar. C'è aria di festa. No, ma guarda quando arrivi tu. Ucci, sento odore di festucci. Allora, com'è questo periodo? Come se non ci fosse un domani. È uscito. Che aria si respira in questo momento? Ma in questo momento c'è grande entusiasmo. Sono molto felice per come è stato accolto questo album. E poi, ecco, la voglia di riabbracciare tutti, perché comunque non dimentichiamo che provengo da un momento drammatico che poi inevitabilmente è finito anche tra le righe di questo lavoro. Senti, chiudiamo subito l'argomento. Stai bene? Hai fatto tutti italiani. guarda che figurino, cioè, magrissimo. Ti hanno dato domanda... il permesso, perché ormai tu devi sempre firmare la giustificazione. Per me è la domanda delle 100 pistole. Ecco. Quando mi chiedono come stai, allora io inizio a dire... è abbastanza amico per dirgli la cartella clinica o dico sto bene e taglio corto a voi? E diciamo che navigo a vista, ma comincio a vedere terra, comincio a vedere le Americhe. Io gli invidio il fisico comunque. Hai visto che fisicone che ma c'è? Ma una roba. Hai visto? Vabbè, il miglioramento senti. Peraltro. È venuto fuori l'ex rugbista che c'è in vedi, me, vero. Per quello chiamo la mia nuova vita. Sì. Siccome dopo il primo intervento a rischio avevo detto a tutti questa è la mia seconda vita, le cose diverse. E non mi ha portato benissimo, perché poi ce n'è stato un altro di incidente. Beh, perché allora... non sapevi che dovevano essere tre e non due. Brava, infatti da ex rugbista volevo dire... È il terzo tempo. Brava. Sono preparato. Scusa, ti ho rubato... Applauso per Bellagio. No, però scusa, a proposito... È il mio terzo tempo, questo che è il più bello. Certo. È quello in cui ci si diverte, ci si abbraccia, si brinda anche tra avversari. E quindi questo deve essere. Senti, ma siccome l'hai detto, la seconda vita... ma cioè, cosa si prova ad avere successo per la seconda volta in modo diverso? A diventare in due vite diverse. Sì, diciamolo, perché c'è il marchetto di una major molto importante. Della Ignition e della Warner. Esatto. Allora, per chi capisce di musica, allora non significa che se un disco è prodotto da una major è più bello o più importante. Quello sicuramente no. Però che è il segno di un successo, sì. Sì, sì, e di una fiducia, certo. Soprattutto, che questo credo... Sì. Negli ultimi tre anni, sai con che ci vado a fare a Londra, che presentammo qua, sì. Ricordo ancora, con bottiglie di vino annesse, e bellissima nostra abitudine. E a casa, non lo dico, a casa l'abbiamo consumata a casa. Non sul lavoro, non sul lavoro. Se no la borsa crollava per quello che diceva Marte. Omar, scusa, vai. E quindi ho cercato di fare questo lavoro... per ricostruire la mia carriera, no? Tanti mi dicevano carriera solista da 8 anni, in realtà la mia carriera solista non era mai partita, perché dopo quel premio della critica per il miglior testo a Sanremo del 2004 con lì, un pezzo pazzesco, con Lavoro inutile, mamma mia. Mi trovai in 2 mesi, quando tutto stava per ripartire, nel letto di un ospedale e trovarono questo mio problema cardiaco. Oggi, 3 anni fa, mi hanno detto ok, puoi ricominciare a cantare, e grazie a questo paracadute, a questo gancio in mezzo al cielo che mi è arrivato dagli inglesi, come li chiamo io, capitanati da Gallagher, hanno avuto fiducia in me, ho iniziato a lavorare per loro ed eccomi qua col secondo disco, dopo un'altra puntatina, un altro pit stop. Ma sì, quello no, non ti fai mancare mai niente. Beh sì, ma perché ogni tanto avevamo fatto delle revisioni così, ecco, non so. Quindi quando lui ma mi dice di parte meglio. La tua carriera, non so mai come vederla probabilmente, però me la vivo ma più. Ma scusa Marta, posso chiedere, siccome ha citato gli inglesi mi viene troppo da chiedere, come fai a fare un suono, parte una tua canzone e io mi sento a Londra? Guarda, mi fa molto piacere. Questo però è stato un'arma a doppio taglio. Per anni in Italia è stato ritenuto il limite di Omar Pedrini. Ma dai! Perché mi hanno sempre detto che scrivevo in una maniera troppo inglese. Perché? Mi hai chiesto? Perché sono cresciuto già nel biberon. Avevo latte Beatles, latte Rolling Stone. Però lo zampino di Noel Gallagher c'è in Come questa se non volta ci fosse c'è domani. Non soltanto dietro le quinte, ma mi ha ceduto una canzone ed è stata una delle 4 forti emozioni che ho avuto con questo disco insieme. Dai, allora elenchiamole. Beh, Noel che mi ha ceduto questa canzone praticamente inedita, poi in due brani c'è la Royal Albert Hall College Orchestra. Dopo questa prestigiosa orchestra della Royal Albert Hall ho avuto anche la sorpresa, due sorprese da due grandi vecchi, uno della letteratura ed uno del rock. Quello della letteratura è Lawrence Ferlinghetti, papà, mentore, editore, poeta della Beat Generation, quindi un personaggio, un ragazzino di 98 anni con cui ho fatto amicizia quasi 20 anni fa, mi aveva già donato dei suoi reading nei miei dischi. Questa volta sono stato contattato dalla sua biografa e traduttrice Giada Diano, che ringrazio e saluto attraverso i vostri microfoni, e mi dice: oh, ma mi ha detto Lawrence di chiamarti perché ha scritto una canzone. A 98 anni non ha più niente da inventarsi con quello che ha fatto nella sua vita. È stato arrestato per aver pubblicato Urlo di Ginsberg, cioè senza di lui non avremmo quel poema straordinario sulle menti migliori delle nostre generazioni. E sì, è convinto, mi dice la biografa, di aver scritto una canzone perché stava facendo questo reading in un bar a San Francisco e appunto c'era un suo amico e io aggiungo un giovanotto di 80-81 anni, certo. Quelli giovani, perché non gira con quelli di... Esatto, che strimpellava la chitarra. A lui è venuta l'ispirazione di questa canzone che si intitola Desperation Horse. Quindi entra sto bimbo mentre lui fa il reading con il papà, che era un suo lettore, un suo fan, e il bimbo gli dice, lo vede col cappello da cowboy che porta spesso Lawrence perché è un burlone. Lui gioca spesso a vestirsi o da cowboy o da Statua della Libertà. Il bambino gli dice... Il bambino dice, sei un cowboy, tu sei un cowboy. E allora lui, per farlo contento, no, gli, cioè il papà della Bigia, ma certo che sono un cowboy, gli faceva così con la pistola. No? E allora se sei un cowboy, dimmi dov'è il tuo cavallo, perché non hai un cavallo? Allora questo guarda il bambino e gli dice, il mio cavallo c'è, lo cavalco da tutta la vita, è che non lo puoi vedere, si chiama Desperation. E di getto ha scritto questa canzone, secondo lui. Quindi è un inedito, una cosa sua, me l'ha affidata. E poi e ha io detto, gli ho scritto la musica, gliel'ho rimandata e mi ha dato l'ok. Io ti giuro, solo a raccontartelo la pelle d'oca. E posso dire di aver, ho la soddisfazione di avere una canzone firmata Pedrini Ferlinghetti. Rock, letteratura e poesia da sempre le metti assieme, però sì. Sono un impasto che ti piace. L'ultimo ospite poi, ecco, è Ian Anderson dei Jethro, quindi il flauto più famoso della storia del rock. Ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati grazie a Gallagher, insomma, ho la possibilità di avere tante porte aperte a Londra e quindi ci siamo frequentati e poi un giorno parliamo di questa canzone, inevitabilmente tra musicisti si parla di musica. Il suo fonico Manny, che ringrazierò tutta la vita, gli fa sentire questa canzone e gli dice, guarda, l'ha fatta uno che con una canzone che si chiama Sole Spento mi ha salvato la vita. E scopro che questo era un italo inglese. Ma dai, e lì, ma dai. Te la faccio breve, mi arriva una mail un giorno per Pedrini Omar da Ian Anderson e Non sapevo se aprirla. Sai, il virus è un virus, è uno scherzo. Tipo virus o il giocatore di poker che apre dopo aver cambiato le carte. La carta. Non, perché dice, Mari mi scrive, guarda, mi fa cagare il tuo pezzo, non lo so. Questo è una via di mezzo tra Mefistofele e un clown. E la mail. E mi scrive, ho fatto la solo nel punto in cui mi avete chiesto, poi mi ha preso la mano e ti ho fatto anche una solo alla fine. Però toglielo pure se non ti piace. Gesto dell'ombrello. Ho chiamato subito il fonico. Carlo, raddoppia la lunghezza del pezzo che ci ficchiamo dentro tutta la sua. Me lo godo. E come darti torto, Omar, ci ritroviamo ancora tra pochissimo, un po' di traffico, poi saremo ancora insieme con Omar Pedrini, come se non ci fosse un domani. Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone. Da lunedì 4 settembre alle 12 su Radio 24. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. RadioTube. E siamo ancora con RadioTube con un grandissimo ospite, Omar Pedrini. Come se non ci fosse un domani, è il suo ultimo album. Partiremo su quelle astronavi, fuggiremo dagli esseri umani, io e te, come se non ci fosse un domani. Omar, ho letto una bella intervista tua, mi pare, su Avvenire, dove dici però che questo disco è per i giovani. Ti piacciono i giovani, vuoi parlare dei giovani. Oh, che la frase fa molto Elio alle storie tese. No, invece per i giovani bello. Mi fa ridere. E invece è bello che lo dici. Ho voluto, ecco, quando ero in ospedale che mi è venuta l'idea comunque di questo disco, questo come se non ci fosse un domani, ha una frase chiave che poi racconta, anticipa i temi di tutto l'album, che è: mi sveglio e sento che ho già paura. Questo senso di paura che abbiamo un po' tutti oggi, no? Non era una deformazione mia, che stavo in ospedale, quindi veramente non sapevo se avrei avuto un domani in quel momento. E quindi mi sono immedesimato anche negli altri, e oggi tutti apriamo gli occhi e abbiamo paura di qualcosa. Vuoi dell'inquinamento, delle polveri sottili che attanagliano le nostre città, paura per i figli, per il loro futuro, per l'economia, avranno lavoro, mio figlio si sta laureando e mi dice tanto farò il disoccupato, papà. E quindi ho sviluppato, insomma, questo lavoro incitando i giovani a far sentire la propria voce, perché io noto che i ragazzi di oggi, che sono delle bombe. Sì. La mia generazione, no, quando cominci ad avere i capelli bianchi come me, si dice noi eravamo migliori, i giovani di oggi non valgono nulla. Invece a me piacciono sti ragazzi. Bravo, Omar. No, ho fiducia in loro. Anche a me piacciono molto. Credo che abbiano bisogno di qualche dritta, perché comunque stanno facendo una rivoluzione al contrario. Non escono di casa, comunicano con tutti, ma non si parlano. No, perché con i telefonini, con WhatsApp, mio figlio mi dice ti voglio bene attraverso WhatsApp, quando lo vedo fa fatica a parlarmi, si intimidisce. Io mi ricordo con me e suo nonno, il mio babbo, quando mi diceva Omar sabato tieniti libero che andiamo a mangiare insieme che ti devo parlare, io mi cagavo addosso tutta la settimana, perché avevo sempre la coda di paglia, oddio cosa avrà saputo. Però si andava a mangiare insieme al papà, no? Lo guardavi negli occhi, si pasteggiava, si parlava vecchio. Ma ho pensato, non è colpa di mio figlio. Tra me e mio padre c'era una generazione. Tra me e mio figlio c'è un'epoca, un'era. nei libri di storia in futuro. Verissimo. Mio figlio è la prima generazione dei nati digitali. Io sono anche un po' sfigato perché in famiglia ho moglie e due figli millennials e io sono il vintage, quindi ormai mi sono prossimo a, no? Mi sono già vicino alla porta. Sei prossimo anche al traguardo importante. Dipende dal vino, ci sono vini che devono che essere quindi... Grazie, grazie. Allora... Chiamami Barolo. Omar Barolo, non mi dispiace. Sai che sulle langhe vado facile. Strano, sai, ritrovarti qua. E così bella come sei. Al passo con questa città che corre, corre, corre, corre, corre. Milano che corre su al cielo, Milano è il ghiaccio bollente, Milano sei tutto, sei niente, Milano sei uno tra i tanti, Milano che va sempre avanti, Milano col trucco perfetto, è il sogno di un grande architetto. C'è una ragazza alla quale sono molto affezionata, che anche Daniele conosce molto bene, che si chiama Samantha. Sì. Che mi ha detto. Oh, cara Samantha. Che mi ha detto. Ti abbraccio forte, forte. C'è una canzone alla quale sono molto affezionata che si chiama Il cielo sopra Milano, perché è dedicata a un gruppo di persone alle quali voglio bene. Come è nata Il cielo sopra Milano? Allora, Il cielo sopra Milano è nata un anno fa, è una delle ultime che ho scritto, un anno e mezzo fa, quando appunto lo skyline milanese. Emergeva, no? Sì. Cambiava completamente l'orizzonte della nostra città. E ho voluto raccontare proprio dal balcone di casa mia, io vivo in quella zona, ho visto sorgere come funghi questi grattacieli, questo entusiasmo che hanno trascinato in questa nuova Milano che effettivamente sta riscoprendo i fasti di 20-30 anni fa. E ho voluto raccontare questa Milano che mi affascinava tantissimo e nello stesso tempo un po' mi inquietava, perché dicevo, caspita, che velocità, no, questo futuro. E ho pensato, prima un riferimento artistico, ho pensato alla città che sale di Boccioni, sì, che è anche un simbolo di Milano, perché proprio mi dava l'idea di una nuova Milano futurista in qualche modo. E quel quadro, ecco, se avessi avuto tanti soldi come alcuni miei colleghi, avrei comprato i diritti, sarebbe diventato copertina nel mio cuore, quella roba lì. E poi, andando a spulciare nella biografia di Boccioni, perché mi sono incuriosito, lui aveva fatto questo quadro proprio da non milanese, perché la mia paura era, vivo a Milano da 22 anni, sono bresciano, vengo dalla Franciacorta e dal Lago di Garda, i miei genitori, quindi come posso raccontare la mia Milano? E ho pensato, la mia non è la Milano di Iannacci, di Gaber, di Vecchioni, la Milano dei milanesi che hanno cantato i Meneghini, del mio amico Ruggeri. La mia è la Milano vista da chi arriva da fuori. E Boccioni espresse lo stesso concetto, curiosamente, quindi mi ha dato coraggio, in qualche modo è stato un po' una luce, e ho scritto questa Milano da chi è milanese ma viene da fuori, che la guarda comunque sempre come se fosse sui gradini della stazione centrale, come quando a 19 anni Omarino da Brescia arrivava qui per fare scienze politiche. Grande, grandissimo. Daniele, io avrei ancora mille domande, ma hai ancora una domanda da fare? Ma non lo so, adesso che cosa succede? Cioè da domani, siccome stiamo preparando una bella tournée da quest'autunno, da fine settembre, nei club italiani fino a marzo, e ad aprile avrò una parentesi anche europea, nelle capitali europee e soprattutto in Inghilterra, dove ho già quattro date. Grazie agli zii, dove da allora sto sognando che venga il signor Ian col suo flauto e magari mi faccia il regalo. Io prenoto già l'aereo. Ho saputo che ha messo la canzone sul suo sito, è già un buon segnale. Beh, quindi Speriamo. Ma secondo me lui è là che dice: se succede, sono qui che sogno che arriva Omar, sì, e mi fa il regalo. Sicuramente. Di... Ma guarda che sì, ma guarda che tu devi dici sempre così, poi sì. Vabbè. No, va bene. Vedi, questi grandi ti insegnano già a essere umile. Sì. Quando vedi un personaggio come lui, se non ti piace da solo, cancellano. Ecco, questa è una cosa. Quindi mi hanno insegnato i giganti ad essere umile. Ecco. Non è merito mio, ma trovo che sia importante nella vita. Omar, torni a trovarci altre 10-100.000 volte. Sì, è come. La prossima volta con una bottiglia di... Ma Franciacorta, una volta porta le bollicine. Caspita, come no? E berremo come se non ci fosse mai. Un abbraccio, grazie. Ciao, grazie. Omar. Grazie. Vi voglio bene. Straordinaria. Allora, è stata una puntata in cui abbiamo parlato di temi solo apparentemente leggeri, perché abbiamo fatto un sacco di riflessioni che mi sono piaciute molto. Bella, begli ospiti, bei temi, sono molto come contenta. Se non ci fosse domani, quindi però noi ci rivediamo invece sabato. Speriamo che alle come 15... se non ci fosse domani, ma come se ci fosse anche sabato prossimo, sabato del villaggio alle 15, Radio Tube alle 17, ancora con un sacco di belle cose, ne sono sicura. Daniele, buona settimana. Anche a te e a voi, ciao.